A proposito di ieri, appunto, è stato abbastanza difficile decidere come muoverci e con chi muoverci soprattutto, perché la cosa interessante è che ci sono molti gruppi di affinità e quindi questa strategia di organizzarsi in gruppi di affinità alla fine è risultata abbastanza efficace e valida. Perché molte persone che sono arrivate qua da altri paesi avevano già delle idee molto chiare sulle azioni da portare avanti, per esempio il Pink Block o il gruppo Samba o convinte proprio, per cui appunto era un po' difficile riuscire cioè, ad aggregarsi a un gruppo fondamentalmente, perché in sette in realtà non potevamo comunque fare nulla di concreto a livello di gruppo di affinità, per cui abbiamo passato tutta la giornata cercando di decidere a che gruppo aggregarci, proprio perché il gruppo più grande, che era il gruppo aperto, partiva alle 3 di mattina e c'era un po' il rischio che sarebbe stato fermato dalla polizia. Infatti così è stato, cioè appena si è usciti dal campeggio, a 1 chilometro di cammino di distanza c'è stato il primo blocco della polizia verso le 3:30 di mattina e vabbè, inizialmente siamo riusciti ad aggirarlo, dopodiché dopo altri 500 metri ce n'era un altro e lì sono iniziate diciamo, le distruzioni da parte di singoli elementi non controllabili come al solito, per cui Pizza Hut, Burger King, eccetera, sono stati distrutti e quindi c'era un po' questa paura che la polizia fosse sempre più nervosa e determinata a fermarci proprio per il fatto che si fossero state distrutte delle cose in centro a Stirling. Nonostante ciò, appunto il gruppo più grande era diviso in tre spezzoni e a livello proprio di spontaneità si è riusciti comunque ad avere una compattezza e ad aggirare le forze di polizia senza un'organizzazione precisa. Insomma, siamo riusciti un po' a spiazzarli proprio perché non c'era un'organizzazione precisa. E infatti questo spezzone ha continuato ad avanzare verso la M9, che era la prima strada che poi portava alla A9, che è l'autostrada che è diretta a Glen Eagles. E vabbè, appunto, diciamo con proprio azione diretta si è riuscito a sfondare il primo cordone di polizia e ad andare avanti fino al secondo e al terzo. Dopodiché un tot di gente, tra cui noi, ci siamo defilati perché abbiamo comunque visto che il rischio era troppo alto e sinceramente non volevamo farci arrestare il primo giorno, per cui abbiamo fatto un po' di strategie Vietcong per riuscire a tornare al campetto in mezzo ai campi. Comunque la maggior parte di gente, fondamentalmente quelli che non sono stati arrestati e neanche picchiate o fermate, diciamo che sono tornate attraverso i campi facendosi 5, 10, 15 km a piedi, ritornando attraverso la campagna al campeggio. La mia percezione è quella che questo caos che un po' regna, cioè, ossia caos nel senso che, visto che i paesi sono moltissimi ed è difficile trovarsi qua in un momento così e riuscire a organizzarsi con una tattica comune, cioè proprio l'autosufficienza, l'autonomia e responsabilità di ogni gruppo, cioè prevale comunque su un'organizzazione unica e univoca e quindi cioè, sta un po' lì la nostra forza di avere una strategia abbastanza eterogenea e che ogni gruppo è in grado di prendere delle decisioni proprie, autonome, senza parlarne in un'assemblea allargata dove sicuramente ci sono tantissimi infiltrati, perché proprio qua in Inghilterra cioè, si vede proprio come le forze di polizia siano veramente anche infiltrate dentro il movimento e questa cosa del controllo cioè, sia di polizia in borghese che sia di altra polizia che filma, fotografa, eccetera, è abbastanza forte.